Il punto di Stefano Folli. Quando si parla di lista civica nazionale a favore di Mario Monti, bisogna spiegare bene di cosa si tratti. Non potrà essere una cosmesi, cioè l'abbellimento di qualche partito già esistente, come quello di Casini e Fini, e nemmeno un cartello elettorale fra personaggi in cerca di un posto in Parlamento. Per essere credibile e presentarsi davanti agli elettori con possibilità di successo, questa lista dovrà assomigliare a un movimento realmente radicato nella società civile e nel mondo produttivo. Dovrà essere capace di suscitare l'attenzione dell'opinione pubblica più e meglio di come hanno fatto in questi mesi i movimenti cosiddetti antipolitici, cioè Matteo Grillo e compagnia. Insomma, l'impressione è che i fautori di questa lista civica, ammesso che sia chiaro che stiamo parlando, siano già in ritardo. Mancano pochi mesi alle elezioni e il sistema politico resta ingessato più che mai, anche perché ancora nessuno sa con quale legge elettorale gli italiani voteranno. Questo è il vero problema che si presenta di fronte alla possibilità che Mario Monti resti a Palazzo Chigi.